1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan, che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Forza amici di 24 mattino, eccoci qua, siamo pronti alla rassegna stampa. Mi raccomando, state con noi perché abbiamo tante notizie da raccontare dai giornali, abbiamo tante notizie da approfondire più avanti. Ci occuperemo della sanità in Lombardia, dell'ultima inchiesta che ha terremotato e ha fatto scoprire presunte tangenti. E che dire, dobbiamo tuffarci subito nella lettura dei giornali? Ma sì, dai, facciamolo. Questo martedì 23 febbraio, i titoli intanto, il Sole 24 Ore si dedica alle borse, sprint dal greggio, Milano sale con le banche, questo è il titolo di prima pagina. Poi ci sono alcuni quotidiani che puntano sulle unioni civili, l'ultima trattativa, stop alle adozioni, sì alla reversibilità, questa è l'apertura del Corriere della Sera. Mentre Repubblica, unioni civili, il PD ha deciso, fiducia e addio adozioni. Per il manifesto c'è la foto di Alfano e Renzi a fianco, coppia e incolla. Mentre andiamo su Avvenire, dove unioni con fiducia e senza stepchild, questo è il titolo di prima pagina. Veniamo alle altre aperture. La Stampa, un documento esclusivo, è un rapporto di Bruxelles sulla nostra economia che verrà reso noto domani. Il titolo è l'Italia debole può contagiare l'Unione Europea. Questi rilievi della Commissione, scarsa crescita e debito. Il giornale, la verità sui due anni di Renzi. Mentre il Fatto Quotidiano, Renzi fa l'autospot, la stampa estera gli ride in faccia. Per il Messaggero invece, ISIS, droni, USA da Sigonella, è il titolo di prima pagina. Vabbè, vedremo altri titoli, voglio subito però tuffarmi nella lettura di alcune notizie. Voglio iniziare da un qualcosa di popolare. Cani e gatti, amici. Cani e gatti, amici nostri. Amici che fanno parte sempre più delle nostre vite. C'è stata la giornata mondiale del gatto, lo sapete. E allora l'ADOC ha fatto un sondaggio per capire quanto si spende per cani e gatti. Mantenerli è un'impresa. Pensate che dal 2001 a oggi sono aumentati del 70% i costi per mantenere in famiglia cani e gatti. Alimenti, accessori, spese veterinarie. Ci costano 12 miliardi l'anno. 12 miliardi l'anno gli italiani spendono per cani e gatti. In media 1.800 euro per un cane, tra alimenti, accessori, spese mediche, 800 euro per un gatto, spesa aumentata del 70% dall'introduzione dell'euro, circa 5% di aumento ogni anno. C'è una bella intervista, lo racconta Il Giorno, a pagina 18 e 19, esplode la pet mania, la pet mania. E c'è anche un'intervista a Valeria Marini e al suo... alla sua persiana sexy star, Valeria Marini, una pagina di intervista sui tre persiani che possiede. Sapete perché ho detto questa notizia legata a cani e gatti? Perché c'è un'altra notizia legata, se volete, agli animali e a un personaggio politico non di secondo piano, vale a dire Silvio Berlusconi, una notizia che viene data dal Corriere della Sera da Tommaso L'Abate. Eccola qua, pagina 14. Silvio Berlusconi sarebbe diventato, udite udite, vegetariano. Così titola il Corriere, la svolta di Berlusconi, ora menù vegetariano, basta far soffrire gli animali. Sapete che dietro a questo probabilmente c'è la svolta e la pressione anche di Michela Vittoria Brambilla, sempre molto sensibile al tema degli animali. E giura il Corriere, insomma, gli indizi sono diversi per far capire che Berlusconi ha avuto questa svolta. Da quando ho letto delle sofferenze degli animali che viaggiano verso il macello, quindi verso la morte, mi è passata la voglia di mangiare carne. Posso fare a meno della carne e lo farò. Così una frase di Berlusconi. E un'altra, stiamo parlando di creature meravigliose, come si fa a ucciderle, come si fa a mangiarle? Insomma, Due indizi fanno quasi una prova. L'ex presidente del Consiglio sarebbe diventato vegetariano. La difesa degli animali e dell'ambiente, predisposta da Michela Vittoria Brambilla, fa parte anche dei programmi elettorali, anche dei sindaci. Insomma, Berlusconi si è lasciato sfuggire la frase «mi è passata la voglia di mangiare carne». Tutti adesso a capire, con il celebre ragù di Arcore, delle cene di Arcore, che fare, che facciamo, i cuochi disperati ad Arcore con il ragù, come ci dobbiamo regolare? E pare che l'ordine sia evitare di fare il ragù usando la carne. Quindi la svolta di Silvio Berlusconi, questo almeno racconta il Corriere della Sera. Vedete gli animali. Oggi sono ben presenti sui giornali. Va bene, e dobbiamo raccontare invece di quella che è la burocrazia, in una storia di Carlo Lottieri sul Giornale, che manda in fumo 500 posti. Questo succede in Italia, pagina 7. Carlo Lottieri racconta la storia di un imprenditore, Francesco Biasion, imprenditore veneto. Impresa Bifrangi, che negli ultimi 40 anni ha conosciuto uno sviluppo formidabile. È un ex fabbro Biasion, senza grandi studi alle spalle, ha fatto crescere un colosso il quale dà lavoro a 1000 persone distribuite in 6 sedi in 4 paesi. Impresa leader mondiale dello stampaggio a caldo degli acciai, regge con forza sui mercati proprio mentre molti concorrenti escono di scena. Un'azienda che fa gonfie vele, ma l'imprenditore ha deciso, un po' alla volta, lascerò l'Italia. E il motivo è quello solito, la burocrazia. Quella burocrazia, scrive il Giornale, che il premier Renzi ha detto non deve diventare il timbrificio alla Checco Zalone che rinvia sempre. Bisogna smetterla con la burocrazia che ostacola. Ebbene, Biasion, racconta il Giornale, doveva installare a Mussolente, cuore storico dell'azienda, un maglio gigante, 1500 tonnellate, capaci di esercitare una pressione di 55.000 tonnellate, ed è stato costretto a dirottarlo in uno dei due stabilimenti che ha in Texas. Perché? Perché le varie amministrazioni si sono dimostrate insensibili alle sue ragioni, con la burocrazia, creando difficoltà a non finire. E allora eccola qua, la burocrazia manda in fumo 500 posti, questo giura il Giornale a pagina 7 attraverso il racconto di questa azienda. Ma eccoci, siete in macchina? Siete in treno? Siete a fare colazione, dovete appoggiare oggetti contundenti, caffè bollenti, caffè latte, cappuccini, brioche con la crema che poi le schiacciate dalla rabbia? Siamo pronti alla notizia da Mani sul Volante! La notizia che mi fa più incazzare della giornata! Ed è un resoconto che Enrico Marro fa a pagina 5 del Corriere della Sera sui 30.000 pensionati d'oro. Ci sono 30.000 pensioni in Italia, scrive Marro, che rappresentano un mondo a parte, di assoluto privilegio, che la politica ha tenuto al riparo dalle riforme che negli ultimi 25 anni hanno invece tagliato la previdenza ai comuni mortali. Sono le pensioni del personale di Camera e Senato, le pensioni di ex deputati e senatori, ipocritamente definite vitalizi, le pensioni dei dipendenti della Regione Sicilia, quelli del personale della Presidenza della Repubblica, dei dipendenti della Corte Costituzionale e degli ex giudici della stessa Corte Costituzionale, i vitalizi degli ex consiglieri regionali. Insomma, di tutti questi assegni che oscillano in media tra i 40.000 e i 200.000 euro l'anno, si sa poco o nulla, se non appunto che sono d'oro e costruiti su regole di assoluto favore. Eppure da 12 anni c'è una legge che imporrebbe di conoscere tutto di queste pensioni, i cui dati dovrebbero essere trasmessi al casellario centrale della Previdenza. Ma la legge viene disattesa e non si trova modo di farla rispettare. Un tentativo di censire questo piccolo paradiso delle pensioni è contenuto in un rapporto intitolato Il bilancio del sistema previdenziale italiano, diffuso dal Centro di Studi di Itinerari Previdenziali presieduto da Alberto Brambilla. Però non si è riusciti, perché reperire questi dati è difficile. Mancano le informazioni di questi soggetti, che non comunicano i dati come peraltro sarebbe previsto dalla legge. Non li comunicano al casellario centrale. E allora chi sono questi 30.000 pensionati d'oro? Beh, le categorie le abbiamo dette. ex parlamentari, ex giudici della Corte Costituzionale, ex dipendenti di Camera e Senato, ex dipendenti della Regione Sicilia, ex dipendenti della Presidenza della Repubblica e a lei. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alino Milan, il prestinè dell'informazione. Beh, questo dialetto milanese ci arrivo anch'io. Allora, cari ascoltatori, mandate le vostre sigle al 349-238-6666. Le sigle in dialetto mi piacciono. E poi magari aggiungete anche il dialetto, che ne so, di Biella, piuttosto che il dialetto di Montecatini, di Forlimpopoli, la mia mitica amica Forlimpopoli, che mi piace sempre citare perché mi piace, suona bene, Forlimpopoli, Frampol. Allora, cari ascoltatori, sulle unioni civili ci siamo, lo dico un po' con ironia, no? È la settimana decisiva. Vabbè, insomma, la scelta è stata fatta, il dado è tratto. Renzi lo aveva annunciato nella direzione del PD domenica e andrà a finire così. Via la stepchild adoption. Ripeto, tanto non la sanno pronunciare, quindi al Senato meglio toglierla. Via l'enorme fotocopia tra unione civile e matrimonio. Rimane invece la reversibilità, ed è questo ciò che sarà contenuto nel maxi emendamento al disegno di legge Cirinnà, sul quale il governo blinderà tutto con il voto di fiducia. Dunque, stralciate le adozioni, stralciate tutte le parti di riferimento tra unione civile e equiparazione tra unione civile e matrimonio, e rimane però la reversibilità. L'emendamento per le unioni civili senza adozioni. Ovviamente partono già le polemiche, i giochi di rimpiattino, è colpa mia, è colpa tua. Mentre Alfano ancora gongola, c'è la Cirinnà, racconta il Messaggero, che sì, ha assorbito la bordata. Gli amici dicono: e chi l'ammazza? Ha preso la tramvata ma è ripartita subito. E lo sfogo della Cirinnà, racconta Claudio Marinco, la pagina 6 del Messaggero: finché non svendono i diritti delle coppie lascio la mia firma al disegno di legge. C'è invece un Ivan Scalfarotto, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che è uno dei padri, uno di coloro che avevano spinto di più per questa legge, lui che si batte per la difesa dei diritti degli omosessuali. Ivan Scalfarotto, intervistato da Francesco Maesano, dice: è tutta colpa dei grillini. Eccolo qui il gioco delle responsabilità. È una realistica presa d'atto quello che facciamo di una realtà che si è modificata martedì scorso. Di Maio offende l'intelligenza degli italiani quando dice che sul testo è favorevole, compresa la stepchild adoption. Se il Movimento 5 Stelle avesse voluto portare la legge a casa, avrebbe dovuto votare il canguro martedì. Ormai siete esperti tutti di cosa sia il canguro, questo emendamento che faceva saltare tutti gli altri. E poi sintetizza Scalfarotto la mancanza di fiducia nei confronti del Movimento 5 Stelle con questa frase: io una macchina usata dall'onorevole Di Maio non la compro più. Ho la certezza che andando in aula i loro voti mancherebbero. La loro è una scelta politica, cercano voti a destra. E d'altra parte il Movimento 5 Stelle che ribadisce: guardate che se voi volete noi discuteremo di tutti gli emendamenti e votiamo a favore della legge, anche a favore della stepchild adoption. Sta di fatto che ormai questo è superato dal maxi emendamento con la fiducia che verrà proposto dal governo. Ed ecco allora che racconta Emanuele Buzzi sul Corriere della Sera, pagina 9, che il Movimento 5 Stelle, tagliato fuori, pensa di lasciare l'aula, abbandonare l'aula al momento del voto. Questo si scoprirà mercoledì o comunque da quando si voterà. Repubblica sintetizza anche a pagina 3 la rivolta del mondo gay: la politica così svende i nostri figli. Insomma, le associazioni gay, anche il regista, il celebre regista Ferzan Özpetek, ieri su Twitter ha scritto: Renzi, vergognati. Vabbè, diciamo, ci sono polemiche, staremo a vedere se verrà incassata così la legge senza le adozioni, se vincerà Alfano, il nuovo centrodestra di fatto, o come andrà a finire. Mentre sono tutti i giorni di celebrazioni per i 2 anni di Renzi, 2 anni di Renzi, 2 anni di governo, il 22 febbraio, cioè ieri, Renzi ha fatto una conferenza stampa, ha parlato alla stampa estera, ha proposto anche questo documento che viene mandato in Europa con l'Europa che vorremmo. Ha parlato poi di questi due anni, ha annunciato che la Sanremo-Reggio Calabria verrà ultimata il 22 dicembre, poco prima di Natale, tanto che Fabio Tonacci di Repubblica, pagina 22, va a vedere a Borgo Laino, in provincia di Cosenza, a che punto è la Salerno-Reggio Calabria, parla con gli operai del cantiere a dire sì, promettiamo che entro il 22 dicembre ce la faremo, lavoriamo su 3 turni di 8 ore ciascuno, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, così racconta l'operaio Giuseppe sgranando il suo rosario di addetto alle saldature dell'acciaio. Ce la faremo a finire entro Natale come vuole il Presidente del Consiglio, dice Giuseppe, il saldatore del Varco 5. La pensa così anche Luca, che guida su e giù il camion con i massi. Insomma, sapete che la situazione da Salerno-Reggio Calabria, per chiunque l'abbia fatto, è una situazione annosa di stop and go, di interruzioni, di cantieri continui. Il 22 dicembre, promette Renzi, è tutto finito. Sarà tutto finito in tempo per il Natale degli italiani. Sta di fatto che tutto un profluvio di voti, voti, voti. Allora cosa date al governo Renzi? Renzi l'ha anche chiesto su Facebook, ha fatto vedere ieri in una serie di slide quello che abbiamo fatto in questi due anni e poi ha lanciato su Facebook l'idea: e ora quale riforma vorrete, cari italiani? Vabbè, il giornale ovviamente fa notare sui social, è così che anche tantissimi hanno risposto: la vera riforma, vattene via, vattene a casa. Vabbè, ma si sa, insomma, quando uno si butta su Facebook con una domanda o sui social in generale con una domanda, ricava di tutto nelle risposte. Sta di fatto che l'Unità invece dice: ecco, gli italiani hanno risposto, ci vorrebbe l'agenda digitale. Serve un'agenzia delle uscite per le spese della pubblica amministrazione, dice il sottosegretario Zanetti. Via libera al referendum e legge per il Senato, dice Stefano Ceccanti. Ci vuole la svolta digitale, dice appunto l'imprenditore consigliere Paolo Barberis. Giacomo Vaciago invece dice: da sola l'Italia non cresce, bisogna lavorare con l'Europa, e dunque richiama Renzi più a una collaborazione con la stessa Europa. Insomma, che cosa serve all'Italia? Di certo il Fatto Quotidiano ha fatto notare una cosa. Forse nelle vostre città ve ne siete accorti, ci sono dei manifesti che non so se sono, io non li ho ancora visti, ma sicuramente compariranno, perché sarà una campagna di 10.000 manifesti pubblicitari su autobus e pensiline, migliaia di cartelloni in 118 città italiane, in tutti i capiluoghi di regione, provincia, nei comuni superiori a 30.000 abitanti. Insomma, il governo comunica, vuol far sapere cosa ha fatto, e lo farà con una maxi campagna di affissione di manifesti in tutte le città. Ora però il Fatto Quotidiano fa notare questo, con Carlo Di Foggia e Tommaso Rodano a pagina 2. Il governo si fa lo spot, ma i cartelloni li paga il Parlamento. È accertato per il Fatto Quotidiano che a pagare tutta questa campagna di maxi affissione sono i gruppi parlamentari con i soldi che si distribuiscono. E di chi sono questi soldi, cari italiani? Secondo voi di chi sono questi soldi, visto che hanno tolto il finanziamento pubblico, così dicono ai partiti? Di chi sono questi soldi? Vi rifaccio la terza domanda. Ma certo che sono vostri! Di chi pensiate che siano? Sono i vostri, i nostri soldi, usati per i manifesti in giro per l'Italia, per dire: guardate quante cose belle che abbiamo fatto. La campagna di affissioni nelle città finanziata coi fondi dei gruppi del Partito Democratico, per ripetere sempre le solite slide, così almeno dice il Fatto Quotidiano a pagina 2. Certo, c'è da dire che a proposito di che succede in questi due anni, c'è questo documento pubblicato dalla Stampa, il Country Report, un documento non molto positivo, o positivo a metà se volete vedere il bicchiere mezzo pieno. Pagina 2-3 della Stampa, è un documento esclusivo. Marco Zatterin, corrispondente da Bruxelles, parla di questo rapporto Country Report che riguarda l'Italia, che verrà reso noto domani. È il trionfo, per quel che riguarda l'Italia, dei tuttavia, e cioè disegna questo rapporto un paese, l'Italia, che fa progressi grazie alle riforme del mercato del lavoro, le banche, l'istruzione, tutto Tuttavia, si sollevano nuovamente dubbi sull'opportunità del taglio delle tasse sulla casa, l'efficacia della spending review, cioè il taglio alla spesa pubblica. Insomma, è un richiamo alla realtà per un paese che ha ripreso ad andare e che tuttavia, eccola ancora la parola chiave, non è ancora riuscito a mettersi in sicurezza. Una fotografia nitida del sistema Italia che fa capire come l'Italia rimanga un paese sotto osservazione, innanzitutto per la mole del debito pubblico, la difficoltà evidente di controllarlo, ma anche per la competitività sotto il potenziale rispetto alla media europea. Dunque un'Italia che va su riforme lavoro ma vulnerabile sul debito. Questo è il rapporto Country Report che viene anticipato dalla Stampa oggi. Di chi sono questi soldi dei manifesti, caro Mauro Meazza? Anche un po' tuoi, Anche un po' tuoi. Io i miei due orini li ho messi, per esempio. Tuttavia. Mi verrebbe da dire, caro Alessandro, tuttavia. Ma tuttavia, stavo leggendo sul Sole 24 Ore, sì, questo risparmio sulle ricette mediche, per le prescrizioni degli esami. Non so se hai avuto modo di approfondire, ma ti invito a farlo. Pagina 10 di oggi. Lo farò. Nel decreto legge sugli enti locali sono state stabilite alcune restrizioni. Il risultato è che adesso praticamente fare certi esami è più complicato, perché anche per i medici per le prescrizioni, e anche più costoso. Ma ti spieghiamo tutto bene sulla la pagina 10 da Barbara Gobbi e Roberto Turno. La parola chiave qui non è tuttavia, ma appropriatezza, che è anche una parola non facilissima da pronunciare. Appropriatezza, bisogna stare attenti a non impaperarsi, però appunto questo caccia agli sprechi è diventata, invece rischia di diventare una foriera di complicazioni. Vabbè, comunque, sul Sole 24 di oggi, mentre con il Sole 24 di oggi, ci siamo i tuoi soldi, no, nel senso i tuoi 2 euro, due orini, no, la prima uscita del manuale del corso di educazione finanziaria del Sole 24 Ore, dedicato significativamente a vincere le paure, perché ad esempio questo temuto bail-in e la volatilità delle borse. Pronuncialo bene, perché sennò a Genova guarda che ci ridono dietro. Lo so che gli amici di Genova sono lì in agguato per vedere se accorciamo un po' troppo la pronuncia. Mi è arrivato il bail-in. Effettivamente per certi aspetti potrebbero non avere torto a fraintendere. Vabbè. Comunque, superando questi aspetti linguistici locali, ti volevo dire, primo volume sul vincere le paure non è solo il bail-in, ma anche appunto una serie di novità, di eventi che si sono succeduti, la volatilità dei mercati e così via. Ecco, tutto questo è spiegato nel primo di 15 uscite, ogni martedì da oggi in avanti. Quindi te lo sei segnato? Me lo sono segnato, primo bravo, numero, ce l'ho già lì sulla tastiera del computer. Molto bene, intanto che hai lì l'agenda, che ti sei segnato le cose, ricordi che venerdì ci sarà un instant book sulla casa. Non l'ho detta stavolta, venerdì, ricordati che... No, vabbè, no, ma no, basta. No, no, venerdì con il Sole 24 Ore, un instant book dedicato alle novità per la casa. Già che siamo in argomento, parliamo di casa. Ed è martedì. Condominio. Oh, bravissimo. Oggi sì, parliamo di ascensori. Anche lì potrebbe esserci qualcosa da spendere, caro. Quindi leggi i tuoi soldi, poi vai a vedere su Condominio. Scusa, devo fare un attimo. Chiedo scusa. Qui Radio Fisco. Sì. Abbiamo il dato del TFR di gennaio. No, tu fai il sarcastico, ma guarda che è importante. È importantissimo. Anche per noi due, sì. Spero che sia un TFR molto alto. Tra l'altro, sempre in Norme e Tributi, dove c'è il dato del TFR di gennaio, troverai anche questa segnaluccio di allarme. Ci sarebbero circa 100 miliardi di crediti da parte dell'INPS non riscossi. Contributi non versati, per parlare molto... Ecco, cioè no, molto bene, un accidente, però Ti spiega Matteo Prioschi con dovizia di particolari come siano aumentati in questi anni sempre i crediti da parte dell'INPS. Bene, molte altre cose ti vorrei dire, ma intanto mi volevo congratulare per Nereo Mihailovic, che mi pare ieri abbia aver dato una prova così di c'è questa tua ironia sul fatto, insomma, noi abbiamo pareggiato come ben poche squadre a San Paolo e voi avete perso, ma comunque andiamo avanti. No, no, ma nessuno voleva fare dell'ironia, anzi volevo fare sinceramente dei complimenti. E poi questa sera sai che si gioca una partita internazionale, caro mio. Tanti noi... auguri ovviamente alla Juventus, sinceri. Ma restiamo, sinceri. Restiamo distaccati e godiamoci naturalmente lo l'evento. Spettacolo del Bayern. Aspettando di tornare anche noi da quelle parti. Molto bene, e tutto ciò premesso, caro Alessandro, leggiti i tuoi soldi e soprattutto traffico. Alessandro Milan, come si fa a farti la siglettina in toscano se tu c'hai neanche una sci? Ciao Milan. Grande, grande, questa è una delle migliori. Allora, grazie cari ascoltatori, siamo a Bertolaso che dopo l'ennesima gaffe raccontata da Repubblica, Repubblica TV ha detto con tutto il rispetto per l'Aquila, Roma è una città terremotata, suscitando lo sdegno dei cittadini aquilani che hanno detto sei senza vergogna. Beh, ma insomma, per porre un argine a tutto ciò, Berlusconi sta pensando a mettere uno staff di comunicatori al fianco di Bertolaso, candidato sindaco, che rimane il candidato sindaco del centrodestra, anche se Salvini ha un po' più di un qualche mal di pancia al riguardo. Troppe gaffe, un esperto per Bertolaso, racconta al Messaggero il candidato berlusconiano dopo aver detto capitale terremotata. Ecco, dopo che esplode la protesta degli aquilani, il Cavaliere ha deciso di affidare all'ex capo della protezione civile uno spin doctor, come si chiamano in questi casi, uno staff di comunicatori. Chi saranno, questo lo scopriremo solo vivendo e vedremo. Certo, c'è da dire anche che ci sono molti articoli riguardo all'Europa, a ciò che l'Italia propone per l'Europa, il piano italiano per l'Europa è ciò che Renzi ha proposto ieri, e lo trovate, li trovate sul Sole 24 Ore, come ha raccontato anche Mauro Meazza. Vi voglio segnalare però come notizie dagli esteri intanto questa notizia che riguarda la guerra in Libia, nel senso gli attentati e le distruzioni che ci sono in Libia, gli attacchi attraverso i droni da parte degli americani. L'ultimo è stato qualche giorno fa, un bombardamento per colpire alcuni militanti dell'ISIS, anche di alto profilo, portato avanti dagli americani. E tutto ciò coinvolge l'Italia. Coinvolge l'Italia perché i droni che colpiscono in Libia partono dalla base aerea italiana di Sigonella. E quindi dalla Sicilia partono, d'altronde noi siamo alleati atlantici degli Stati Uniti, e come raccontano i giornali il via libera è stato concordato in gennaio, lo ha rivelato il Wall Street Journal, dopo un negoziato segreto, anche se la difesa italiana ha posto tre condizioni: i velivoli possono agire solo in appoggio a unità d'élite nel caso siano in pericolo, ogni incursione sarà autorizzata volta per volta e la disposizione si applica a qualsiasi area dove sia presente l'ISIS. Insomma, regole d'ingaggio che però non cambiano, modificano la sostanza della questione. L'Italia dice sì all'America e dunque droni armati americani possono partire da Sigonella per colpire in Libia. E questa è una notizia interessante. Come l'esclusiva che ha Repubblica insieme all'Espresso e che riguarda il governo Berlusconi del 2011, quando alcuni consiglieri di Palazzo Chigi erano intercettati dagli americani. Ebbene sì, oggi lo svela Repubblica e vengono pubblicati per la prima volta i file che provano che i controlli nel nostro paese c'erano da parte degli americani attraverso il sistema NSA, il sistema, diciamo, del controllo mondiale americano. Sono stati registrati vari colloqui dell'allora capo di governo Berlusconi e dei suoi collaboratori nella fase decisiva che portò alle dimissioni del governo. Beh, è abbastanza incredibile la rivelazione di Repubblica. Cioè, venivano intercettati non solo Berlusconi, una volta parlava col premier israeliano Netanyahu e tutto ciò è intercettato, ma anche alcuni collaboratori di Berlusconi, come il rappresentante delle relazioni internazionali Valentino Valentini, il quale parlava degli incontri che Berlusconi aveva avuto all'epoca con Sarkozy e la Merkel, quindi rivelava ovviamente dettagli di questi incontri, e gli americani ascoltavano tutto, erano lì che ascoltavano. E oggi Repubblica racconta in esclusiva appunto il sunto di queste dichiarazioni. Vi voglio segnalare, per tornare alle cose italiane, una bella pagina di Elena Tebano, a pagina 21 del Corriere della Sera, che riguarda i diritti dei nonni. I nonni, che sono il mega welfare italiano nascosto e non pagato, perché lo fanno solo per amore nei confronti dei loro nipotini. 12 milioni di nonni si occupano dei nipoti. Ma qual è il problema? Che quando i genitori litigano, a volte ci sono separazioni conflittuali, e questi nipotini rischiano di sparire dalla vista dei nonni stessi. E c'è una condanna della Corte europea, e questa pagina si batte per i diritti dei nonni, cioè di continuare a vedere i nipoti nonostante ci siano magari separazioni conflittuali tra genitori, e spesso i nonni ci vanno di mezzo. Vabbè, Milan top e Napoli stop. Questo è il titolo della Gazzetta dello Sport, ma sono alla carta costa. Oggi lo voglio dedicare a un mio amico speciale, piccolino, il mio amico Joel, che mi ha detto: dai, dedicami la carta costa. No, non è vero, ma lo faccio io. Caro Joel, ti ricordi i chiodini? No, non i funghi. I chiodini. Ve li ricordate i chiodini colorati? Quelli di 50 anni fa, i chiodini che si mettevano nei buchini e si facevano tutte le figure. Tornano i chiodini, Joel, tornano i chiodini, e il Corriere della Sera dedica una pagina a questo, facendo il titolo con chiodini, fatto con i chiodini tutti colorati. Joel, c'è il ritorno dei chiodini. Ma chi se ne frega!